Okay. Originale. era tutto un altro vecchio. Gaffa. Proprio la stessa apposta allora. Andava meglio così. Cava. Aspetta un attimo, là. Vediamo un po'. E a metà sto usando il 93. Cava. Bella modulazione, va bene. No, non spinge come questo, vedi? È proprio questione di adattamento del radio. Questo è quarzato, tutto a quarzi. Quello è un PLL, non so perché non spinga così. Evidentemente è proprio questione di baracchini. Ma magari non sapevo, sono degli altri microfoni quelli. Se sono adattati alle radio che devono andare, spingono parecchio. Questo ce l'ho meno di metà. Meno di metà, sto parlando piano piano, e c'è mia figlia anche con il cat. E ce l'ho a 20 cm dalla bocca. Tipo microfono a tavolo. Stavi dicendo a me che è meglio questo qua del P4, non lo so, non lo sa. E come timbrica sì, come timbrica è molto meglio, molto più chiara, molto più presente, c'ha i medio bassi, i medio alti, è molto più piena come radio. L'altra è forte, forse quanto questa, però rimane più metallica. Più contoni alti, mica i contoni bassi, capito? E anche la tua è metallica come radio, Questa qua, a parte che è un bel forte, però rimane leggermente metallica, no? Non più tanto. È un bel forte però, un bel. Gappa. Beh, questi microfoni ce l'hanno la timbrica così. Però devono spingere a questi livelli, capito? Non c'è bisogno di gridare, di attaccarlo alla bocca. Devono spingere così perché sono microfoni normali con capsule dinamiche, quindi vanno bene. Ma andiamo bene, l'importante è che funzioni. Perché con questo qua avevo solo microfono a tavolo, microfoni da palmone a vero, capito? Siccome volevo portare al lavoro, allora per non avere il microfono a tavolo mi porto questo. Già funziona. Adesso stamattina l'ho portato anche l'altro supercar franco, l'altro SBE, ieri, adesso lo devo attare quello lì, e poi c'è un altro lavoretto da fare. E quindi abbiamo terminato con queste radio, poi le prendo, se le compute dentro l'armadio, che non ne voglio vedere manco una. No, baracchini, non ne voglio vedere manco uno qua. Nulla. Sono qui attivata nei seguivari. Sì, ma radio di quella specie che conosci tu, non baracchino, non voglio sapere, no. Ne sto preparando uno buono, fatto bene, con microfono amplificato, tutto, per mettere in macchina quando viaggio, capito? Quando viaggio. Però poi qua a casa mi devo vedere, tutti dentro l'armadio. L'altro fatto c'è quello che mette lui, questo qua, per usarlo, qua il 27, e mi ha detto di no, che è troppo umano e che non sa dove metterlo. E allora, adesso lo sto usando, lo sto provando, ho visto che va bene, lo prendo e te lo chiudo dentro l'armadio brunico. E intanto cosa fare? Io la radio, sono abituato a avere quella là e non c'è niente da fare. Questa è bella, c'è una ricezione famosa, ritengo il volume basso, dove c'è la colonia davanti, ti va il risorio. Non prende splatter, non ha QRM, è molto selettiva come radio. È un 40 canali, va bene, c'ha 5 watt, 6 watt modulati, va benissimo, però non mi attira mai questa cosa, mi piace più l'altra grande. Gaffa, la mangia già si fa sentire, non c'è problema, si fa sentire. Così più adatte ora ne ha fatti. Cioè, io ripeto, a me come timbrica di modulazione io non sono abituato a sentirti in quella maniera lì. Io ho sempre sentito con quella timbrica là, sempre. Adesso ho 15 anni, 12 anni, sempre con quella timbrica là. Sì, perché è difficile che usi i baracchini, capito? Però in fase di prove, di uso quando penso che vanno bene come questa, che è una radio insomma che si fa sentire, che è cabinata, una volta che c'è tutto va bene quando non ha porta. E abbiamo aperto questa ieri per passare per mettere il cavo di alimentazione nuovo, perché sto andando a 220, questa va a 220. C'è ancora i sigilli dentro, figurati. È del 1972 questa radio, e c'è ancora i sigilli dentro, c'è il quarto, tutti coperti, tutti sigillati, tutta la cera lacca nei trimmer, non è mai stato toccato da nessuno, mai, mai, mai, mai. Infatti Franco è arrivato e ha detto adesso che stai uscito per dire, non tocca nulla, e va bene così, per parlare a Sassari o per parlare, devo parlare alla, al QRL, ce n'è in abbondanza. Una volta ci andava, poi si è giunta bene, sto a far toccarla. Ma adesso ti guardo qua, guarda, devo non accorgere, tipo questa che c'ho io. Te lasciati, senti, vi ha visto, c'ha vita, fa, ma chi, non capisco queste persone che... Già va bene, se non fate così lasciate così, ma adesso si può fare una modifica per avere un canale in più. Ma la lascia così, una volta che la tocchi poi ce ne va, tutta per i fatti suoi, capito? Non andava bene, non va bene, poi con peccati di radio. Adesso vediamo cosa riesce a fare Antonio su questa radio qua. Ma infatti, il problema è quello, quando le radio vanno bene bisogna lasciarle come sono. Io ti ripeto, questa non è mai stata toccata nessuno. Era buttata dentro un garage quando l'ho comprata io. Era tutta sporca, però non si aveva un graffio. Ho tutto pulito i pomelli, tutti lavati, frontale e cassone, è nuovo, nuovo, nuovo. E poi è nuovo anche dentro, capito? Non è mai stata toccata perché c'è la cera lacca tutti nei trimmer, nei quarti, è quarzata questa, capito? È quarzata. E poi c'è posto per mettere anche altri quarti, per farlo diventare ancora più in alto, o sopra, capito? Non me ne ha fottuto. Non c'ho queste grosse necessità, capito? Uso l'altro e basta. Va bene, questo Franco non si intende. Franco Galifano. Qual è il tratta che c'è dietro qua? Quel... Metter, S.Metter, cosa c'è a Rubetteo? Ah, aspetta che è il WFO esterno. Cos'è il WFO? Il WFO è la sintonia continua, è il 440, non c'è il WFO, la sintonia continua. Ci sono dei cosi, dei pezzi che si aggiungono alla radio e praticamente, anziché andare con quello dei canali così, siccome quello c'ha le bande, metti la banda per esempio C e lavori con WFO e quindi vai un ben alto sotto, capito? Se ti va un giudico ti puoi salire lui sulla radio. Perché a parte il fatto è difficile trovarli, capito? Poi sicuramente con lui c'è anche la battle frequencimetro dietro. Metter mi è scelta quel frequencimetro, perché l'altro dovrebbe essere CHVFO, cioè dovrebbe essere scritto. No, aspetta, controllo, ma... No, c'è... PA... PA è il codice delle cuffie, e poi c'è questo spinotto, Metter, non c'è altro. No, non c'è altro. Ma io stavo un po' nella cosa, volevo smontare il coso, ma ora ci uscivo un attimo. Ma non c'è altro qua, niente da fare. Comunque c'hanno un sacco di attacchi. Vabbè, quello lì è quel modello lì, se prendi il Lincoln c'ha anche l'attacco del buffer esterno, c'ha l'affare delle frequencimetro, poi c'è altre cose. L'ho avuto io quello lì e andava molto bene, ottima radio senza nessun problema, solo che lì per caso è arrivato così allucinante, se no sta fumando le storie pesanti, come si chiama? Da 100, pacca e piano, non finire più, cazzo. No, sono buone, perché una di quelle magari non stai un bel pezzo per fumare, capito? Stai un bel pezzo per fumare con una di quelle lì. Perché sono leggermente più lunghe, capito? Sì, ma diciamo che non sono malvagio queste sigarette, sono buone, dai, io vado a spero. Sì, che sono buone, e io voglio. Sono ottime come sigarette. Perlomeno io prima sto fumando Marlboro Light e poi ho scoperto quelle lì e vanno bene. Sono sigarette che già sono gustose, dai. Se non le fumiamo è meglio, però. Vabbè, ce la ci vuoi fare. Gappa. Questo qua è il microfono originale. Vabbè, ugualmente, sì. Comunque, aspetta. Hola. No, non fa gracchiando però adesso. Era troppo tirato. E ti dico pure un'altra cosa. In mano è troppo tirato qua. È troppo tirato. Per quello non ce la fa l'alimentatore. Questo qua deve dare 12 watt in mano, no 25 o 30, chi so. E quanti watt là? Altro di volente generati 30. Tu non hai sentito l'altro giorno che lo stava provando. Non c'è un dissipatore da 30 watt, no. Quella radio me deve dare, di origine me deve dare esattamente 8, 10 in AM, 15, massimo 18 in banda laterale, non di più. Se deve essere originale, perché il supercar è così, c'è 8 watt in AM e 15 in banda laterale. Ieri stavo guardando adesso non mi viene il nome, vabbè, dove sono gli apparecchi, un Diplian, non si capisce come lo chiama, ci sono scritte quelle caratteristiche che praticamente in AM deve dare 5 watt, 5 tondi, non 10, e in banda 12 watt. Così mi ha detto, qui c'è anche Franco, quando ti capita di andare da Franco, controlla che c'è uguale, abbiamo visto un Franco, uguale identico. E tu guarda le caratteristiche che c'ha, come c'è la fabbrica, e poi fai sapere. Mi pare che sia proprio esatto, perché il mio ne dà 7 watt in AM e con l'alimentazione è però 14,8, se metto l'alimentazione a 12,5 ne dà 5 watt. Capito? E in banda laterale la stessa cosa, quindi è così, ne deve dare 12-13. E così devono viaggiare, il dissipatore è fatto per viaggiare in quella maniera, non è che può avere 30 watt. E un grido, non mi viene da mascia, un bel frutto e gracchia. E poi con il microfono amplificato lo devo proprio abbassare, proprio lo devo mandare quasi a zero, se no fischia, fa un fischio, un innesco. Con questo originale no, perché la modulazione è normale, perciò no, esce bene. E la stessa cosa che faccio la moto, cioè tu compri un motorino per esempio, no? Sarà una cazzata, è 50, meglio lo fai 70. Ma se gli ambri bici, sai, stanno tranquillo, ti fa, guarda, un bel poco. Fatti la mia, quel motorino, no? È 50, sta sempre andando, quando l'ho comprato sta sempre andando. Dovete mettere i rulli perché, come dicevano prima, è un po', sai come si asciugano, così iniziano a farsi quadrati, fatti i quadrati, li ho cambiati e stanno andando sempre. Gira quella moto lì, le metto i pezzi. Stanno tranquillo che mi fa un bel poco. Sopra a piedi c'ho, infatti era la 750 e mi ha ammaligato tutti i rughi. Ai gappa. No, ma la realtà è così, infatti. Quelle radio meno le tocchi è meglio, hai capito? Meno le tocchi è meglio, perché altrimenti poi si starà tutto il sistema operativo e non ne vuoi bevi. Io sinceramente non li ho mai toccate perché non so radio non va bene. Non va bene. A meno che non sia una radio che debba tenere quella potenza, allora le fai i lavori che sono da fare, come io ho 440, per avere 200 volte gli ho fatto cambiare il finale di trasmissione, non gli ho fatto toccare il trimmer, perché non si tocca lì niente. Lì si mette un finale a MOSFET, ho tolto quelli normali, ho messo quelli a MOSFET che praticamente anziché avere 100 watt ne hanno 200. E quindi la radio esce con 200 watt ma senza nessuna paratura di niente, capito? Ho fatto il centro assistenza, ho fatto fare come cristiano. E la stessa cosa per i baracchini. Quando vuoi aumentare la potenza, la lasci com'è, ti compri un lignaretto, un amplificatorino e usi la potenza che ti dà un amplificatorino. È inutile, avremo la maniera di educare la potenza, fa, ti e molla. Se la radio è tarata per quella potenza, funziona con quella potenza. Infatti, bisogna lasciarla com'è, basta, non stare lì a stirare e fare. Tanto ti fa sempre male. Se è stata costruita così, deve rimanere così. Sentivi, attirà, fa, no. Adesso facciamo terminare Antonio, una volta che finisce a casa, che si fa tutti i mobili, si organizza, tanto sotto c'ha un, non so come si chiama, un magazzino, diciamo, e glielo faccio vedere, vediamo un po' cosa. Lui ha detto di cambiare tutti i trimmer, non che cazzo di giovani. Tu li vuoi pronti a cambiare? Ma io lo vivo con un po' di tempo, io vivo con 10 minuti, mezz'ora massimo, dai, li vuoi tutti cambiare. Ma adesso dipende anche da lì. Adesso vediamo cosa fa. Vabbè, se lui lavora così velocemente, non so. Adesso, forse fra un paio di settimane, sta aprendo un mio collega radioamatore, laboratorio via Savoia. Capito? Sta aprendo un laboratorio via Savoia. Ed è molto molto bravo, fa di tutto, ma soprattutto si impegna. Baracchini non, diciamo, si yoga perché fa apparecchiature materiali e costruisce punti radio, fa un sacco di cose, capito? È tecnicamente molto molto preparato. E sta prendendo il laboratorio in via Savoia, un mio amico radioamatore. Al limite se Antonio non mette gli piedi, che devo farle dare uno sguardo da lui, lo portiamo e te lo faccio controllare al banco lì da lui. Gaffa. Luia, per carità, non trovare il tornado, 4.000 gimbega, però c'è una radio, a me mi piace un bel. Tu dirai, è meglio questa, ma non me la faccio niente, a me mi piace che siamo per radio. Una bella radio, bella, Stefano l'ha pagata 500.000 lire, 450.000 lire, cugina mia, 450.000 lire, era nuova, devo dire, no, fiammante, proprio nuova, era un grafico che sa radio, tutta, ed era un bombo, non ci va bene, proprio, guarda, abbiamo aggiunto la scheda dei bit, 4 toni, me l'aveva fatta con Furio, però come radio era fiammante, nuova. Cazzo, la regalata per sentire l'ho ubriato vista, però non è stata mai toccata, è mai, originale, solo che va, solo questa scheda di 4 toni, basta, non è altro. Allora va bene, sì, l'ho avuto il tornado 4005, ho avuto anche l'altro più piccolo, poi ho avuto le superstar, ce l'ho avuti tutti, anche il 9006 che è quello che c'ha la potenza regolabile del 0 a 50 watt. E va da 24,3 a 32 MHz, proprio con, c'ha 7 bande, è favoloso. Quello c'era Mario Bombo Natale, non va nessuno, quello che l'ho avuto qua a casa, e sono delle radio eccezionali. Non c'è bisogno di avere radio onda, perché già lo so, radio ne ho, quindi però dico uno che vuole uscire bene, tranquillo, sereno, e quello che non è biglia che sa, perché è tutta quartata, la pelle è tutta quartata a quarti, la quartata non muovo allucinante, e si può modulare tranquillamente bene, qual è il problema? Sì, ma si sente che è vago nel radio? Si sente, però guarda, quel tornado era un gioiello, era dopo. Guarda, noi, io ho sentito dire che Stefano, quando usciva il furgone, comunque l'apparecchio lì, con l'Ema 300, guarda, non ti dico che erano più forti, poi c'era il GG qua sotto, mi sembra 300 watt era, 300-400 non mi ricordo, tipo quello che c'è tu, quello che era di Franco. E ti dico che non erano più forti, ma in chi ti sembra, la siamo a nome di ieri, ombe. C'entrava pure nella cabina, una volta aveva detto, lui vai nella cabina, alza la cornetta. Ha alzato la cornetta e si sentiva lui parlare. Lui con Baracchino io ho ascoltato dalla cabina. Ah, io non conoscevo tuo fratello allora. Come si chiamava? Non è attivo. Ehi, fatti la voce di Mariuccia. Sotto cotinette. Poi c'era la famiglia così. Un po' di dubbi. Poi c'era coso, l'altro collega, come cavolo si chiama, adesso non mi ricordo, lavorava con Santino, la Bonani, ma l'ha conosciuta Santino forse, quello faceva le consegne. Allora, la ditta di Mazzana, Santino lavorava con me, abbiamo iniziato tutti e due alla cima a portare medicinali, poi io sono passato in Defarma, lui si è aperto il coso di Aleconce, capito? Io conoscevo Carletto molto bene, Carletto sì, ma a te di vista l'ho visto qualche volta, ma se non era finito, se non lo riconosco. Non so. Ma comunque nella matta nome di gente, c'è una stazione, c'è una 2001 turbo, non c'era la PL1000. Sì, a 2001 turbo c'era una stazione lì in furgone, era micidiale. E Baracchino era normale, non era toccato né niente. C'era l'M300, mi si è fatto mettere questo Roger Bip che era fissato. Poi l'avevo messo anch'io nella Fayette, Texas, ma ha funzionato Badiria, poi c'è tutto quanto incasinato. L'ho levato la scheda, era tutto uscito a fare i cavoli sui. Mi ricordo che non c'era il radio. Niente, comunque si faceva sentire qua, era veramente un'ultima stazione, barra pesante, diciamo, barra mobile, usciva veramente bene, io lo sentivo da casa, io mantenivo lui a Padania, arrivava bomba qua a me, a bomba, beh, c'era la segretaria attaccata sempre, lo facevo andare di brutto, poi con la M300 modificata era una bomboletta, proprio, quindi sono pochi, pochi, da chi prima aveva le M300 come camera, ecco, adesso tutti stanno facendo la modifica, la stanno facendo dentro, ma quelli di Stefano, quindi erano i pochi, cioè ce ne sono pochi, forse nulla. Io quando in macchina l'ho messo poche volte, le poche volte che l'ho messo praticamente avevo il M300 che ce l'ho ancora, dato l'armadio, e la Fayette del Texas, avevo con l'M300, e funzionava bene. Però sempre avuto una base magnetica e non mi ha mai bucato macchina a mettere quei pali luce, non mi è mai piaciuto a me. E quando ero portatore Giallini che viaggiavo la mattina, parlavo praticamente anch'io sul canale 5, ma usciva benissimo. Mi ricordo sì che c'erano autisti di Santino che avevano un baracchino, ma non mi ricordo di esattamente che era lui, capito? Vabbè, altri tempi. C'è un modulometro questa radio, come parlo c'è la modulazione al 100% di percentuale, c'è proprio la percentuale 10, 20, 30, 70, 100%, qui c'è il rosmetro, un attimo, è lo strumento bello grande, va bene. Comunque, la funzione pure, faccio ciò che funziona, e lo vuoi guidare perché è un bel grande, mi dà anche fastidio. Adesso vuole moderare l'armadio, quando metto l'antenna di là, non lo sposto. Aspetta, mi correggo Claudio, mi correggo. Lavorava con Pier Andrea, quando c'era Costantino l'ha avuto malattino, però non riusciva a così malattino, cioè lo valava a 48 mi sembra, no 48, sì, 68, adesso mi ricordo, quando era con Pier Andrea, usciva un bel forte. Con Pier Andrea, perché Santino c'era sempre molto carrozzelle, con Pier Andrea sì, con Pier Andrea c'era un bel forte, Pier Andrea brava voce. Lui c'aveva praticamente il furgone di Pier Andrea, faceva le consegne lui, c'aveva tutta lì la malata, che usciva veramente bene, guarda, se tu chiedi, qualcuno se ne ricorderà, usciva veramente bene, perché c'aveva l'M300 che non era originale, l'aveva modificato, e qua ti dico che la gente si rubava in busciacca, proprio usciva bene. Gianni, cresce male, ma non ha niente rispetto a quelli che muovono dalle barre pesanti, capito? Sì, beh, la stazione di Pier Andrea era una delle migliori su furgone, lo ricordo perfettamente, andava molto bene, molto forte, molto come radio, c'era un abbinamento, poi vabbè c'aveva un amplificatore non da 80 watt, da 40 watt, da 50 watt, c'era il B550 c'aveva, quindi era un amplificatore che enorme, dava sui 150-180 watt, perciò ci faceva sentire alla grande. Dite la verità, ho registrato il break, dite la verità, non so da quanti watt, comunque era un bel grande come amplificatore. Diciamo che vabbè, non è merito di mio fratello, è merito di Pier Andrea, che aveva quel impianto fatto bene, tutto doc, proprio veramente ci va bene. Avanti Black. Buongiorno Claudio, buongiorno signor Luca, ben sentiti. Ciao, buongiorno Tony, ben ascoltato, avanti Claudio.